collegamento con un compagno in Val di Susa. Abbiamo detto prima di questa notizia, insomma, che è uscita sui giornali, di due arresti in occasione dell'incursione notturna in Clarea. Se ci puoi dire un po' quello che è successo ieri e insomma qual è la situazione di questi due compagni. Sì, ovviamente anche in maniera, diciamo, piuttosto frammentaria, semplicemente perché, essendo fatti di praticamente 12 ore fa, poco più, diciamo, ancora ovviamente siamo nei termini di, diciamo, legali per la incapacità di comunicazione, che insomma l'impossibilità di comunicare da parte dei due compagni, che sono tra l'altro estremamente giovani, e quindi ovviamente questa cosa rende ancora più pesante, per quanto lo possa già essere, la situazione. E per cui, diciamo, quel poco che vi posso dire intanto è che il fermo si situa, direi, ancora in particolare in un contesto delle ultime settimane di militarizzazione della valle, che ha portato a un continuo, a una fittissima rete di posti di blocco, un continuo di fermi, e come gli ascoltatori e ascoltatrici della radio sanno molto bene, ad una, diciamo, a una quotidiana pressione sugli attivisti no TAV, in particolar modo della valle, ma non solo, con diciamo la continua, diciamo, le continue perquisizioni, le inchieste per terrorismo, le perquisizioni anche a casa degli ultracinquantenni che avevano rivendicato l'agibilità della Clarea, andando a fare una battitura, come se ne sono fatte tante, ma in questa maniera anche violando quella zona rossa che ormai è stata posta anche formalmente, quindi con un vero e proprio divieto di circolazione nella zona del cantiere, nella zona più prossima al cantiere. Quelli i due ragazzi di ieri che sono stati fermati, appunto, sono in questo momento, sembrerebbe, per quanto ne ho capito, insomma, si dovrebbero già alle Vallette, in attesa dell'udienza che si dovrebbe tenere domani. Nel pomeriggio hanno un colloquio con gli avvocati, e dopo questo colloquio avremo modo anche di vagliare intanto ovviamente le condizioni, lo stato fisico anche, perché non è scontato. Abbiamo visto nel caso dei fermi della notte del 19-20 luglio, insomma, abbiamo visto che sono stati perpetrati un gran numero di abusi fisici, psicologici nei confronti dei fermati, e non solo, e ovviamente quindi questo ci, insomma, è una delle nostre prime preoccupazioni. E poi ovviamente capire quale debba essere l'immediata risposta, se c'è bisogno di muoversi su un piano di mobilitazione sotto al carcere o meno, insomma, questo però ovviamente i compagni lo valuteranno anche, appunto, in base a quelle che sono le novità che giungono dal colloquio e dall'udienza. E c'è da dire che, appunto, ripeto, il fermo va collocato innanzitutto dentro questo clima di rastrellamento continuo delle automobili, dei passanti, di chiunque soprattutto sia evidentemente non proveniente dalla valle, nel quale sono stati soggetti praticamente quasi tutti i compagni, gli attivisti che in questi giorni hanno attraversato le strade della Val di Susa. Ieri sera, diciamo, comunque, sia ieri sera sia l'altro ieri, si è comunque mantenuto un livello di presenza, e si sono effettuate, sì, l'altro ieri in pieno giorno, ieri al calare della notte, sono tenute delle passeggiate che hanno raggiunto nel primo caso le reti vere e proprie, effettuando anche lì, appunto, una battitura effettuata per lo più da compagni molto giovani che avevano precedentemente pranzato di fronte, sfidando, diciamo, le forze dell'ordine, pranzando di fronte ai cancelli che danno sulla strada dell'Avanà e sulla centrale elettrica che sta a Chiomonte, e per poi, appunto, tramite i sentieri raggiungere la rete. Ieri invece ci si è fermati poco più avanti, provenendo da Giaglione, ci si è fermati allo svincolo autostradale dal quale appunto si ricorderanno chi era presente da dove erano praticamente era stata effettuata la chiusura criminale del corteo del 19 e 20 luglio, diciamo, la notte del 19 e 20 luglio. Quindi purtroppo la situazione dei arrestati, almeno leggendo i giornali oggi, si aggrava ulteriormente, perché comunque nel frattempo sono proseguiti ovviamente gli atti di sabotaggio, di opposizione ai lavori del cantiere di Clarea. Ieri un altro sabotaggio è stato effettuato, sembrerebbe a Bussoleno, e questa cosa ovviamente è un capannone di proprietà di una delle aziende attive nella costruzione, nei lavori dei tunnel in Clarea, e questa cosa ovviamente non fa che aumentare a questo punto la pressione quantomeno mediatica, oltre che sui due compagni, anche sul movimento, che insomma abbiamo visto essere nelle ultime settimane messo in mezzo a un fuoco incrociato di criminalizzazione, di vera e propria repressione. Ieri l'ultimissima, in questa settimana aggiungo solo questa, poi mi interrompo, però l'ultimissima è stata questa veramente infame lettera promossa più o meno in maniera abbastanza evidente anche nelle prime righe, promossa dal titolare dell'albergo, uno degli alberghi che ospitano le forze dell'ordine in Val di Susa, a Susa in particolare. Questa lettera che si direbbe viene stata pubblicata su alcuni quotidiani locali, sembrerebbe essere stata firmata, cioè almeno così riporta il giornale, da circa 500 cittadini di Susa che danno il loro benvenuto alle forze dell'ordine, ma fondamentalmente è una doglianza per l'impossibilità di condurre i propri affari, di poter condurre la propria attività commerciale nella serenità, perché questa cosa avviene ovviamente sostenendo la presenza e l'occupazione militare della valle, fondamentalmente si sostiene della presenza massiccia di carabinieri, polizia e quant'altro, di apparati repressivi che appunto stazionano costantemente, in particolare e ancora di più in queste settimane estive in Val di Susa. Sì, insomma, qualcuno guarda ai suoi sporchi interessi invece che al progetto di devastazione ambientale di un'intera valle. Senti, il clima dopo questi ultimi due arresti in valle qual è tra la popolazione? Ti ripeto, molte cose sono ancora ovviamente da valutare, perché stiamo parlando di qualcosa che è avvenuto da pochissimo. C'è da dire che inizia a esserci una, ovviamente la tensione inizia a essere tanta, perché appunto abbiamo avuto i casi eclatanti di Job, i casi degli ultra cinquantenni, il caso degli indagati per terrorismo, insomma tutti fatti che sono in maniera piuttosto acclarata strumentali a chiudere a rinchiudere il movimento dentro una cappa di criminalizzazione e di paura. Ma io direi che comunque tendenzialmente l'agosto è sempre ovviamente un periodo un po' più lento dal punto di vista dell'elaborazione. Non è un caso che poi le forze dell'ordine attuino proprio in questa stagione le pressioni più forti. Sicuramente non direi che non mi sembra che ci sia nessuna volontà di lasciare chi che sia da solo, ma anzi di ripartire. Comunque già all'autunno si prospetta come una fase di rilancio, ovviamente non solo per la valle, ma che qua in valle già sta iniziando a immaginare i suoi passaggi anche autonomi rispetto alla vertenza Ottavo. D'accordo, ti ringrazio e a risentirci. A risentirci a voi, ciao, un abbraccio. Ciao.